L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati in una nuova puntata dell'Altro Pianeta che registriamo a Cibus, la fiera internazionale dell'alimentazione che si è tenuta in settimana a Parma. In particolare sono nostri ospiti due rappresentanti dell'AICIG, l'associazione costituita tra i consorzi di tutela DOP e IGP, quindi do il benvenuto a Stefano Berni, che è appunto vicepresidente dell'AICIG e poi diciamo tutte le altre cariche. Benvenuto. Grazie. E diamo il benvenuto anche a Pier Maria Saccani, segretario di AICIG. Benvenuto. Buongiorno. Dunque, io le chiedo, Saccani, prima di tutto di spiegare, di ricordare agli ascoltatori cos'è l'AICIG e che cosa vuol dire DOP e IGP. Ci sembra un cappello necessario, diciamo, a questa trasmissione. AICIG è un'associazione nata 7 anni fa tra i consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP e rappresenta circa il 92% dell'intera produzione DOP IGP nazionale, che in termini economici sono circa 7 miliardi di euro come fatturato alla produzione. Il prodotto DOP è certificato, certifica tutta l'intera fase della produzione, dunque provenienza materia prima, trasformazione, produzione in area tipica, in un'area ben definita, mentre nella IGP c'è una di queste fasi, può essere non avvenire nel territorio. Ok, quindi comunque molto legato al territorio, una molto forte, una un po' meno forte, ma sono comunque produzioni legate. Sono due produzioni legate assolutamente, difatti si chiamano indicazioni geografiche, contengono i nomi, l'indicazione geografica, sono delle produzioni che hanno uno strettissimo legame. L'Italia è quella che ha il maggior numero di questo tipo di produzioni in Europa, credo, sì, certificate. Oltre, diciamo, a vantare il maggior numero, che è poi un traguardo che lascia poi il tempo che trova, rappresenta il 40% in termini di fatturato, che mi sembra molto più rilevante a livello comunitario. Cioè da sola l'Italia fa il 40% dell'intero fatturato comunitario di tutti i 27 paesi. Per curiosità, sa chi ci segue? La Francia con meno della metà del nostro fatturato. Ecco. Allora, Stefano Berni, dicevamo, lei ha anche altre numerose cariche, oltre a quella della canottiera, cui tiene molto, no, ma è anche presidente del consorzio per l'aceto balsamico di Modena, direttore del consorzio per il grana padano. Insomma, lei conosce benissimo, diciamo, la materia. Le chiedo quanto è importante per voi il legame con il territorio e il fatto che il territorio venga preservato. Ovviamente, noi traiamo da questo legame del territorio, col territorio, uno degli spunti fondamentali della sussistenza di un prodotto certificato, il quale per essenza sua deve tutelare e tutela il territorio, proprio perché sono tutte produzioni artigianali che hanno un grandissimo rispetto dell'ambiente a partire dalla materia prima. Ma poi quando si mangia un pezzo di grana padano o si utilizza qualche goccia di aceto balsamico, nell'immaginario del consumatore si consuma anche quel territorio. Evidentemente, se il territorio è un territorio gradevole, rispettato, chiaramente ne trae vantaggio anche il prodotto che viene fatto in quel territorio. E quando si vende il prodotto vendendo un pezzo di territorio, è necessario che il territorio sia un territorio oltre che conosciuto, apprezzato e anche gradito, e quindi soprattutto tutelato dal punto di vista della compatibilità ambientale, del rispetto del territorio stesso e quindi del rispetto dell'ambiente. Saccani, lei mi diceva prima il consorzio è anche un ente che tutela il territorio, va letta nelle due direzioni, no? Innanzitutto parliamo sempre, non dimentichiamocelo, nonostante questo grosso impatto economico delle produzioni DOP IGP, perché comunque i valori sono molto elevati, parliamo sempre di prodotti che arrivano dall'agricoltura, per cui anche se ci sono delle fasi, diciamo, o delle produzioni come il grana padano che hanno un volume enorme, è un prodotto agroalimentare. Gli scopi, i consorzi si chiamano consorzi di tutela proprio perché devono occuparsi della tutela della denominazione in primo luogo, cioè della protezione della denominazione contro le usurpazioni, ma anche di tutelare il territorio affinché, come diceva il dottor Berni, il territorio comunque rispecchi la produzione e comunque anche da un punto di vista di immagine ci sia un'immagine legata alla tradizione e comunque al rispetto dell'ambiente e del lavoro, della parte agricola delle, delle produzioni, che comunque rivestono una parte fondamentale del, dell'intero processo produttivo. Un consorzio, Berni, come quello del Grana Padano ad esempio, che muove grandi volumi, poi alla fine li muove tutti in un certo territorio, e lei mi diceva anche come emissioni, certo. Siamo a minore emissioni di CO2 di quanto non possa essere una produzione di quelle che voi detestate, cioè che un po' più aggressive. Un po' più aggressive, quelle che fingono di essere, che si chiamano parmesan, che si chiamano in tanti altri modi, che vengono prodotte un po' qua un po' là e hanno anche alte emissioni, oltre a procurare un danno economico gravissimo perché imitazioni e certo. Non realtà. Beh, dunque noi abbiamo fatto un calcolo tempo fa di emissioni di anidride carbonica nel sistema del Grana Padano, e quindi c'è una sottrazione rilevantissima, perché il Grana Padano parte dalle bovine che sono alimentate da prodotti vegetali, a cominciare dal mais, e quindi c'è un bilanciamento negativo in termini di utilizzo di anidride carbonica, cioè l'anidride carbonica emessa dal sistema è molto inferiore rispetto a quella che il sistema utilizza, a cominciare dalla produzione dei prodotti vegetali che vengono utilizzati nell'alimentazione delle bovine. E poi naturalmente tutto fatto in un'area ristretta, le nostre stalle sono tutte piuttosto vicine ai caseifici, sia per un risparmio di costi di trasporto e sia anche per un'ottimizzazione e una trasformazione di latte analogo. E se si raccogliesse latte sparpagliato e molto distante, ci sarebbero delle difficoltà nel processo caseario, perché essendo prodotti vivi non tutto il latte deve essere caseificato identicamente allo stesso modo. Quando si parla di prodotti di imitazione che provengono in buona parte da paesi dell'est ma non solo, intanto sono prodotti che di strada ne fanno tanta, intanto viene utilizzato del latte che di strada ne fa tanta. In Italia siamo deficitari di oltre il 40% della materia prima latte derivati, e quindi tutta la parte che non è prodotta in Italia viene da lontano, e quindi il prodotto di OP utilizza la materia prima di quel posto in un caseificio, quindi molto fa vicino, tutto lì, fa tutto lì. Senza poi parlare del danno d'immagine, del danno economico, che questo ovviamente è un argomento diverso, ma rimanendo proprio sulla questione territorio, un prodotto di OP e IGP, come dicevamo prima, rispetta il territorio per una serie di circostanze, non ultima la vicinanza del luogo in cui si produce la materia prima, del luogo in cui si producono gli alimenti, nel caso della zootecnia, che producono la materia prima latte, e del luogo di trasformazione del latte, che solitamente è molto vicino al caseificio in cui poi verrà trasformato questo latte. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, che abbiamo registrato a Cibus, che è la fiera internazionale dell'alimentazione che si è tenuta in settimana a Parma. In questa occasione sono stati i nostri ospiti Pier Maria Saccani, che è segretario dell'AICIG, ovvero l'associazione che riunisce i consorzi di prodotti alimentari con indicazione geografica, quindi per intendersi DOP e IGP. Ma adesso stiamo parlando con Stefano Berni, che è il vicepresidente di AICIG, ma è anche presidente del Consorzio per la tutela dell'aceto balsamico di Modena e direttore del Consorzio per il Grana Padano. E quindi la linea torna a Parma. Adesso la porto dal grana all'aceto balsamico, perché ho visto che presenterete proprio qui a Cibus questa esperienza della coltivazione biologica di questa azienda sperimentale Steward a Parma. Certo. Sperimentale in cosa? Mi incuriosisce come l'aceto balsamico, che è così tradizionale, sia poi sperimentale. Sperimentale in questo caso non è il prodotto finito l'aceto balsamico, ma la partenza del prodotto, il processo, eccetera. Quindi c'è tutta una tutela secondo le regole del rispetto dei procedimenti biologici, e quindi partire dall'aceto di vino, perché l'aceto balsamico obbligatoriamente deriva dall'aceto di vino. Questa è per esempio un'altra delle distinzioni importanti. Molti similari balsamici sparpagliati per il mondo non provengono dall'aceto di vino. Caratteristica fondamentale dell'aceto balsamico, oltre che essere prodotto nelle province di Modena. Quindi da cosa lo fanno allora, se non lo fanno da lo fanno da altri tipi di preparati che possono, che assomigliano all'aceto di vino, ma che ci possono voglio pensare. Sì, beh, non ci pensiamo e consumiamo aceto balsamico, lì siamo sicuri. E quindi c'è questa fase biologica, però anche l'aceto balsamico che non si fregia di questa certificazione biologica è comunque un prodotto molto attento, è un prodotto sicuro, perché quello che differenzia un prodotto DOP o IGP da un prodotto generico è che, oltre alle normali fasi di verifica sanitaria su italiana, e in Italia ci sono dei livelli di sicurezza superiori a qualsiasi altra parte del mondo, in modo anche molto rilevante, oltre a tutti questi passaggi obbligatori, per fortuna obbligatori in Italia, ci sono i passaggi di rispetto delle regole del disciplinare, quindi c'è un doppio livello di verifica, quella che riguarda tutti i prodotti agroalimentari realizzati sul territorio italiano e quello in più che riguarda il rispetto delle regole dei disciplinari, e ovviamente i disciplinari, essendo noti e pubblicati, non potranno mai, perché altrimenti il consumatore non li consumerebbe, contenere dei processi che non siano rispettosi della salute del consumatore e dell'ambiente. Quindi c'è questo secondo livello che migliora le performance della già ottima azienda agroalimentare italiana per questi livelli di sicurezza che sono unici, e lo ripeto ancora, in tutto il mondo. Per quanto riguarda i prodotti DOP e IGP c'è anche questa fase aggiuntiva della certificazione di essere, poter essere DOP e IGP, garantita non solo dai consorzi di tutela, ma garantita dal Ministero, dalla repressione frodi, dai carabinieri dei NAS, dai carabinieri dei NAC. Quindi ci sono dei livelli e delle numerosità di controlli che fanno stare assolutamente tranquillo, sereno e sicuro il consumatore. Senta, tradizionale quindi Sacani non vuol dire fatto come facevano i bisnonni, cioè nel senso un prodotto DOP IGP deve attenersi a certe regole, ma non vuol dire che non c'è innovazione dentro. No, allora chiariamo questo ricollegandomi agli ultimi ragionamenti del dottor Berni. Le DOP IGP sono assoggettate a un sistema di controllo, cioè un soggetto terzo che controlla tutte le fasi della produzione, e questo è anche a tutela del territorio, quello di cui stiamo parlando, no? Perché comunque sì, tutta la fase di produzione, qualsiasi filiera, che possa essere la filiera lattiero-casearia piuttosto che suinicola o altre filiere, tutto viene controllato da un organismo terzo. Questo è un aspetto fondamentale, anche perché all'interno di questi controlli c'è tutta una parte di analisi che viene effettuata sulla materia prima piuttosto che sui prodotti trasformati, che garantiscono la provenienza e garantiscono il rispetto di determinati livelli. Un altro aspetto fondamentale è la delocalizzazione, cioè nessun prodotto DOP IGP potrà mai subire pratiche di delocalizzazione, per cui investire su questi tipi di produzione agroalimentare, dunque dal primo all'ultimo anello della catena, sicuramente non si sbaglia, perché costituiscono un asset fondamentale che non potrà mai essere delocalizzato. I disciplinari sono dei documenti in evoluzione, per cui il prodotto sono prodotti tipici, però sicuramente viviamo in un mondo dove c'è un'evoluzione anche tecnologica molto importante, per cui il grana padano, così come il prosciutto di Parma, il prosciutto di San Daniele, hanno dei disciplinari che possono evolvere, per cui questi sono le evoluzioni sicuramente non si occupano delle caratteristiche fondamentali, non cambia l'area, non cambiano le materie prime, però la sperimentazione e l'evoluzione dei disciplinari di produzione sono un aspetto fondamentale, ecco, delle DOP. Però volevo precisare, ha ragione l'avvocato Sacani in quel che dice, ma i tratti fondamentali di una produzione DOP e IGP è sempre legata alla tradizione. la ricetta fondamentale con cui viene fatto il Gran Padano e il Parmigiano Reggiano è quella inventata oltre 1000 anni fa a Chiaravalle, certo, dai monaci cistercensi. Quindi tratti fondamentali della tradizione in un prodotto certificato rimangono. Poi ci sono tutte le evoluzioni che la tecnologia mette a disposizione nel rispetto delle regole tradizionali, quelle evoluzioni che danno maggior sicurezza alimentare, che danno maggior conservabilità, ma sono delle evoluzioni che lasciano intatte le fondamenta. Ed è forse questo il segreto del successo, poi, perché comunque nonostante la crisi dell'alimentare, certo, degli ultimi anni, il particolare questo settore tiene, anzi va. Ma dunque il settore dei prodotti certificati tiene o quantomeno soffre meno di altri settori, e alla fine diciamo che si salva perché sono prodotti molto apprezzati anche fuori dall'Italia. L'aceto balsamico è il top perché quasi il 90% va fuori dall'Italia. È incredibile, sì, questo dato. Ma anche altri prodotti, i due formaggi, Gran Padano, Parmigiano Reggiano, i prosciutti di Parma e San Daniele hanno una fetta di export molto importante, e la fetta di export negli ultimi 5 anni sta crescendo molto più significativamente di quanto non vadano i consumi interni. Per cui direi che in Italia, grazie a queste caratteristiche, c'è una sostanziale tenuta dei consumi dei prodotti DOP e IGP, ma c'è, diciamo, un vantaggio dato dalla crescita costante dell'export, perché questi prodotti, quando vengono assaggiati e conosciuti fuori dall'Italia, acquisiscono immediatamente degli spazi che vengono mantenuti dai consumatori perché li apprezzano. Il successo dell'aceto balsamico di moda in IGP è la controprova, ma negli ultimi 10 anni il successo del Gran Padano e del Parmigiano Reggiano ne sono un'immediata conferma. Ecco, leggendola ancora in un'altra, da un altro punto di vista, forse anche per questo che aumenta il numero di coloro che vogliono certificarsi DOP IGP. Qui ce, certo, ne saranno 10 nuovi quest'anno. Certo. Certo. No, ce ne sono 10 nuovi, sono delle pratiche che sono iniziate comunque da diverso tempo, perché in ogni caso c'è la necessità di tutelare questi prodotti, per cui non scordiamoci che... Quanto tempo ci mettono quindi a vedersi? Non è una questione di tempistica, diciamo, burocratica. Lo stilare un disciplinare di produzione non è una cosa semplice tecnicamente, perché ci sono tanti aspetti che poi hanno un impatto su un'intera filiera, dunque su diverse tipologie di produttore. Per cui avere un disciplinare è una questione tecnica che può essere anche lunga, si può mettere anche qualche anno. L'importante è che ci si deve rendere conto che il sistema DOP IGP è in primo luogo un sistema di protezione, non è uno strumento di marketing e basta, cioè non è DOP IGP allora si vende. E il Gran Padano comunque in questo è uno dei prodotti principali, perché si investono tanti soldi in primo luogo sulla tutela, sulla protezione, perché si proteggono i produttori e si protegge il consumatore contro gli attacchi di tutti quei produttori che vogliono imitare queste produzioni. Comunque un prodotto di OP, se domani inventassimo un prodotto che non c'era prima, non diventerà mai un prodotto di OP, deve avere un radicamento nella tradizione comunque. Adesso delle nuove DOP che nasceranno, c'è, o IGP, c'è per esempio, mi ricordo, il melone mantovano, che è una stravita che si fa. Io una parte dei miei studi me li sono pagati andando a raccogliere i meloni quando ero ragazzino, e siccome ho 58 anni parliamo di tanti tanti anni fa. La pasta di Gragnano, notissima, certo, e adesso otterrà la IGP, ma anche il puzzone di Moena. Allora, se uno è amante della montagna come tanti, come lo sono anch'io, e frequenta la Val di Fassa, Puzzone di Moena è una vita che c'è, e la DOP la otterrà adesso. Ecco. O la Cozza di Scardovare, chi andava fuori dal Po nelle sacche di Scardovare, fuori quindi in mare e l'intorno, anche 300 anni fa trovava la Cozza. Quindi un prodotto che nasce domani non sarà mai un prodotto di DOP IGP. È un prodotto che c'era da prima, che si dà delle regole precise, che le raccoglie e che cerca di identificarlo per tutelare quel tipo di prodotto e il consumatore, in modo che quando comprerà la Cozza di Scardovare sarà solo quella. Il puzzone di Moena sarà solo il puzzone fatto nelle maglie di Moena. eccezionale, è un prodotto eccezionale, non so se sia capitato agli ascoltatori di assaggiarlo, se non l'hanno fatto si ci vadano subito. No, subito di corsa. Grazie, il tempo che avevamo a disposizione è scaduto, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Stefano Berni, ricordo vicepresidente tra l'altro di AICIG, e Pier Maria Saccani, segretario sempre di AICIG. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.